io leggerò le cose che ho scritto poco prima del G8 e che a Carletto piaceva tanto. Diceva che le cose erano proprio così. Questa cosa si intitola il normale umano, è quello che Carletto non era, non era nominato dalla normalità. Piccole cripte, camuffate da gioia, dipinte di sicurezza, simulatori di vita, comodità goffe, di grasso trabordante e follie stese in acconciature. Indispensabili sono gli sguardi. Quello indignato bisogna conoscerlo a memoria, mentre quello triste è gratis. In dotazione con la cripta, le chiavi dell'auto, il box e il cane da combattimento, che invia SMS alla mucca pazza, pazza dalla gioia di poter finalmente uccidere chi la cresce imprigionata di tubi. I tubi di acciaio dentro i manganelli di quella polizia, la sfolla gente, la follia dei documenti, i permessi, che sono sintomo di privazioni croniche, che depravano e deturbano la storia e i bambini per lasciare i loro occhi vuoti, senza più bagliori di rivoluzione. La rivoluzione, dicono, sia un tiro di dadi, un azzardo dei buoni, o il business di chi c'è già, è duro, dura, sulle debolezze altrui. In questo lago salato facciamo pena tutti allo stesso modo, e solo alcuni non fanno anche schifo. Ma ci salvano le ferie. La mia generazione impara a vivere in vacanza, ad amare sui rivantabili, a studiare con gli angeli del denaro. La mia generazione, giudicata dalle precedenti e dalle successive, solo perché meschinamente degenerate in maniera più o meno tecnologica, alcolizzate o drogochimicate. E maledetti frighettoni, è la moda del topo che ti cammina sui piercing. A volte la mia tolleranza cede il passo a sottili baffetti d'odio, per tutto il nulla dei nulla, e perché quasi nessuno ha nulla in contrario alla normalità, di piantarcelo vicendevolmente in culo come stile di vita e in solitudine, nelle braccia, come gioco di morte. Braccia rubate all'agricoltura che non c'è più. Dov'è finito il grano? Come assemblano le merendine sbranate da tuo figlio? Tuo figlio che cresce imitandoti, mentre tu cerchi di capire quante siano le tue colpe in questo cinema muto senza più certi. Ci parleremo sopra e scriveremo qualche canzone per non sentirci normali umani. Appenderemo che pare la Cogol in appartamenti da 200 milioni. Ci chiameremo compagna e compagno e forse ci picchieremo per il G8 come dei subumani, schierati dietro striscioni ambientalisti fatti a bomboletta e rappresentati da slogan vecchi come il conto in banca di Berlusconi, inutili come il sorriso di Rutelli e la morale del maresciallo Rocca. Noi normali umani siamo dannosi a noi stessi, come tanti ricci spaventati che cercano di incularsi. Provate lì a salvarvi con un preservativo, già. Preservarsi dall'amore, quell'amore che nessuno sa ripetere due volte uguale e vivere una volta bene, quell'amore che Dio non ci ha insegnato. E poi potremo continuare all'infinito, ma credo che basti. Bizzarri, questi normali umani. E se Dio esiste veramente, non può non vergognarsi per questo teatro senza estro e fantasia. Chissà se anche lui ha qualche rimorso, qualche rimpianto. Ciao Carlo, Carlo Giuliani presente. Alla voce rotta il padre, dopo un lungo discorso nel salutare il figlio ucciso, 23 anni in una bara di legno castano. Alcune centinaia le persone, tanto diverse, ci sono anche bambini. Arrivano tutte alla spicciolata davanti al portone metallico del cimitero. C'è un microfono. Si alternano gli amici, quelli di scuola. Sulla bara di Carlo ci sono tanti piccoli segni di affetto, un pezzo della sua vita raccontata da minuscoli oggetti. Le sue sigarette, la gazzetta, Carlo era un tifoso della Roma, un collare per il cane, dei piccoli sassi, foulard, una A, simbolo degli anarchici, fatta di legno, tanti bigliettini di amore, di affetto, di rabbia lasciati dai suoi amici. Uno di loro si appoggia a una bottiglia di birra sulla bara, accende una sigaretta e inizia a parlare con il corpo, come se Carlo fosse lì vivo, a bere, a fumare con lui. Camella sulla bara non si spegne. Sullo sfondo un manifesto dice, rivolgendosi allo Stato, al governo, ai poliziotti, non possiamo costringervi a dire la verità, ma possiamo costringervi a mentire più palesemente. Linea Milano. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo hay la verdolaga, oh. Por el suelo yo no la sembré, esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo baila verdorada, por el suelo yo no la sembré. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar.